Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, un saluto da Francesco Galante e io saluto anche il nostro ospite telefonico Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco. Allora, oggi con l'Adico parliamo dell'ennesimo caso che è capitato. Un vostro iscritto si è rivolto a voi per cercare di risolvere la questione. Si è trovato questo signore senza gas e luce per una voltura. Sì, diciamo che ci ritroviamo ancora una volta con una situazione di famiglie lasciate senza gas, senza energia elettrica. E per cause non legate a morosità, anzi per cause che noi addebitiamo assolutamente poi al gestore, che in questo caso è Eni. E in questo caso appunto tutto parte da una voltura richiesta e accordata, assicurata, e dopodiché in realtà mai effettuata da parte del gestore. Ecco Gianluca, spieghiamo, perché magari qualcuno non sa cos'è una voltura. Sì, la voltura è semplicemente la richiesta di allacciamento alle varie forniture quando un soggetto entra in una nuova abitazione. Quindi in questo caso il nostro socio è subentrato a un altro inquilino in una casa. Tra parentesi, questo socio ha valutato positivamente il contratto che aveva questo inquilino con Eni, quindi ad Eni ha chiesto esclusivamente di confermare quel contratto con i propri dati, ovviamente. Eni, a quanto pare dal racconto del socio, comunque confermato in più occasioni, e ha detto al socio insomma che era tutto a posto, però dopo alla fin fine le bollette non sono arrivate e dopo vari tentativi insomma si è trovata una bolletta alta e varie altre problematiche insomma. Quindi un problema che può capitare, evidentemente la burocrazia come sempre mette dei paletti e dei problemi che poi bisogna cercare di risolvere. A questo l'Adico dà una grossa mano spesse volte. Quindi l'iscritto all'Adico si è rivolto a voi e vi ha chiesto aiuto. Adesso come sta procedendo la cosa? Allora, noi chiaramente abbiamo preparato la diffida, perché ecco, chiaramente Francesco, la storia è un po' complessa, nel senso che il nostro socio ha chiesto appunto questa voltura, a quanto pare Eni gli aveva confermata. Dopo 3 mesi che la persona non vedeva arrivarsi a casa la bolletta, ha chiamato Eni per chiedere cosa stesse succedendo. Eni ha detto la bolletta è in lavorazione, e dopo vari mesi non ha visto la bolletta, ha continuato a chiamare, quindi il socio oggettivamente ha fatto tutto quello che si poteva fare, fino a che si è stufato. A un certo punto non ha più chiamato e dopo un anno e mezzo gli è arrivata una bolletta da 1.000 euro, che non è una cifra spropositata, però oggettivamente il nostro socio non aveva i soldi per pagarla tutta, e da un giorno all'altro ovviamente si è trovato senza luce, senza gas. Noi chiediamo l'immediato ripristino di luce e gas, poi anche valuteremo anche la possibilità di un risarcimento. Contiamo che però queste persone è da 10 giorni che sono in una situazione difficile. Proviamo a pensare adesso, certo, con l'inverno, soprattutto il gas, hanno dovuto comprarsi una bombola, un fornelletto, e insomma non sembra un metodo insomma deontologicamente corretto. Quindi noi ovviamente procediamo con la nostra solita, con la nostra diffida, con l'intervento del nostro ufficio legale. Ecco, noi spereremo che comunque il comportamento dei fornitori cambiasse con il tempo, ce lo auguriamo, e speriamo insomma che i fornitori siano più collaborativi. Anche perché Eni ha detto che non era mai stata data la notizia della voltura, vero? Sì, allora questa è chiaramente, Eni si è difesa in questa maniera, e tra parentesi noi abbiamo diffuso ovviamente la notizia come anche un po' nostro costume, e Eni a quel punto è subito intervenuta, ha accusato il nostro utente di non aver firmato la documentazione che loro avrebbero mandato, al che il nostro utente ha detto: ma scusate, ma se a me fosse arrivata una documentazione, per quale motivo non avrei dovuto firmarla e restituirla? Al che da Eni l'operatrice, forse anche un po' ingenuamente, ha detto: ah, forse evidentemente si è persa alle poste questa documentazione. Noi chiaramente non so se sapremo mai come è andato veramente la cosa. Noi adesso la cosa che ci preme di più è che il nostro iscritto insomma abbia la possibilità di avere il prima possibile il riscaldamento e l'energia elettrica, ecco. Sono problemi, speriamo che la cosa si risolva. Beh, non è la prima volta comunque che sento di addirittura raccomandate che non arrivano e non vengono consegnate, e non c'è traccia di queste, eh? Appunto, poi quindi... esatto. Ecco, noi un consiglio che diamo, Francesco, è comunque è sempre quello di dare retta esattamente solo a raccomandate con ricevuta di ritorno. Ti spiego perché. Abbiamo molti utenti che magari ricevono telefonate, molti iscritti che ricevono telefonate da fantomatici, recupero crediti o lettere, ma non raccomandate, sempre da recuperi crediti. Ecco, il nostro consiglio è quello di stracciarle e di dar retta solo esclusivamente alle raccomandate con ricevuta di ritorno. Ho capito, quindi teniamo buone quelle sono quelle che, insomma, bisogna in qualche modo allarmarsi quando arrivano. Esattamente. Va bene. Mai allarmarsi, però insomma diciamo sono quelle che hanno un valore. Certo. Drizzare le antenne, perché insomma hanno un valore legale in questo senso. Bene, speriamo che questa cosa si risolva anche con l'aiuto dell'Adico in breve tempo. Ricordo che c'è il sito associazionedifesaconsumatori.it che così magari avete tempo e voglia di farvi un giro, andatevelo a vedere, perché potreste trovare cose interessanti. Grazie quindi a Gianluca Codognato dell'Adico, che grazie, ritroveremo grazie. Fra qualche giorno. Ciao Gianluca. Grazie ancora, grazie a voi. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.